Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Decima puntata. Musica, disse il dottor Brodsky come pensieroso. Così ti piace la musica? Io non me ne intendo molto. So soltanto che è un utile intensificatore emotivo. Bene, bene. Cosa ne pensi, Branham? È inevitabile, disse il dottor Branham. Ognuno uccide la cosa che ama, come disse il poeta prigioniero. Qui c'è l'elemento punitivo, forse. Il governatore dovrebbe essere soddisfatto. Fatemi bere, per amor di zio, dissi. Slegatelo, ordinò il dottor Brodsky. Portategli una caraffa d'acqua fredda. Così questi sottopoldi si misero al lavoro e poco dopo stavo glutando litri e litri d'acqua ed era celestiale, oh fratelli. Il dottor Brodsky disse: Sembri un giovanotto abbastanza intelligente. E sembra che tu abbia anche un certo buon gusto. Hai soltanto questa cosa della violenza, vero? Violenza e furto. Il furto è un aspetto della violenza. Io non zeccai una sola mottata, fratelli. Mi sentivo ancora male, anche se cominciavo a stare un piccolo poco meglio. Ma era stata una giornata terribile. E ora dimmi, disse il dottor Brodsky, cosa credi che succeda? Cosa pensi che ti stiamo facendo? Mi fate sentir male, dissi. Sto male quando guardo questi vostri film da sporchi depravati. Ma non sono esattamente i film che mi fanno questo effetto. Però sento che se smettete i film io smetto di sentirmi male. Giusto, disse il dottor Brodsky. Si tratta di associazione, il più vecchio metodo educativo del mondo. E cos'è in realtà che ti fa star male? Queste sguanose trucche friggibuco che mescono dal planetario dalle macerie, dissi. Ecco cos'è. Curioso, disse il dottor Brodsky, tipo sorridendo. Il dialetto della tribù. Da dove viene? Ne sa qualcosa, Branham? Qualche rimasuglio di vecchio gergo, disse il dottor Branham, che adesso non sembrava più tanto un amico. E anche un po' di parlata zingaresca. Alcune delle radici sono slave. Propaganda. Penetrazione subliminale. Bene, bene, bene, disse il dottor Brodsky, come impaziente e non più interessato. Beh, mi disse, non sono i fili. Non ha nulla a che fare con quello che ti viene fissato addosso. Quella roba serve solo per misurare le tue reazioni. Che cos'è allora? E così, naturalmente, l'occhiai che razza di tonno ero stato a non pensare a quelle iniezioni ipodermiche. Oh, scricciai. Oh, è tutto chiaro adesso. Proprio un lurido tiro sguanoso. Una bella azione da bastardi, ma vi assicuro che non lo farete più. Sono lieto che tu abbia sollevato le tue obiezioni adesso, disse il dottor Brodsky. Così ora possiamo parlare chiaro. Ci sono molte maniere per introdurre nel tuo organismo questa roba di Ludovico. Per via orale, per esempio. Ma il metodo sottocutaneo è il migliore. Ti consiglio di collaborare. Ribellarsi non avrebbe senso. Non puoi avere la meglio su di noi. Lezzosi bugaroni, dissi, tipo frignando. Poi dissi, non mi importa dell'ultraviolenza e di tutte quelle sguanate, quello lo posso anche sopportare, ma non è giusto per la musica. Non è giusto che io mi senta male quando sto snicchiando il meraviglioso Ludwig van e G.F. Handel e gli altri. Questo dimostra che siete tutti un maledetto branco di bastardi e io non ve lo perdonerò mai. Sembravano tutti e due un po' pensierosi. Poi il dottor Brodsky disse, la delimitazione è sempre difficile. Il mondo è uno, la vita è una. Anche la più dolce e la più divina delle attività partecipa in qualche modo alla violenza. L'amore, per esempio, o la musica. Devi correre il rischio, ragazzo. La scelta è stata tua. Io non capii nulla di tutte queste mottate, ma dissi, continuare è inutile, signore. Avevo cambiato un piccolo poco il mio tono e facevo l'astuto. Lei mi ha dimostrato che tutto questo squassaggio e l'ultraviolenza e l'omicidio sono male, sono un terribile sbaglio. Ho imparato la mia lezione. Adesso capisco quello che prima non avevo mai capito. Sono guarito, grazie a Dio. E alzai i fari al soffitto in modo pio. Ma questi dottori scossero tutte e due il planetario, tipo tristemente, e il dottor Brodsky disse: «Non sei ancora guarito. C'è ancora molto da fare. Solo quando il tuo corpo reagirà prontamente e violentemente alla violenza, come davanti a un serpente, senza altro aiuto da parte nostra, senza farmaci, solo allora...» Io dissi: «Ma signore, signori, io vedo che è sbagliato. È sbagliato perché è contro la società. È sbagliato perché ogni martino di questa terra ha diritto di vivere e di essere felice senza essere picchiato e festato e preso a coltellate. Ho imparato molte cose, davvero, davvero!» Ma il dottor Brodsky si fece una gran gufata mostrando tutti gli zughi bianchi e disse: «L'eresia dell'epoca della ragione», o qualche mottata del genere. «Io vedo ciò che è giusto e approvo, ma faccio ciò che è sbagliato. No, no, ragazzo mio, lascia fare a noi, ma sta allegro. Presto sarà tutto finito. Ormai, tra meno di 15 giorni, sarai un uomo libero.» Poi mi batté sulla mestola. Meno di 15 giorni. Oh, fratelli e amici miei, fu come un secolo. Fu come dal principio alla fine del mondo. Farsi tutti 14 anni col condono alla prista sarebbe stato nulla in confronto. Ogni giorno era la stessa cosa. Ma 4 giorni dopo questa sprolata col dottor Brodsky e il dottor Brenham, quando la quaglia entrò con l'ipodermica, io dissi: «Oh no, non me la farai!» E le detti un pugno sulla granfia e la siringa, tracchete, andò a rotolare per terra. Era un po' per locchiare quello che avrebbero fatto. Quello che fecero fu di chiamare 4 o 5 tamagni bastardoni in camice bianco per tenermi inchiodato al letto e festarmi con biffe ghignanti accostate alla mia. E poi questa quaglia infermiera disse: «Sei cattivo, brutto e maligno», e mi iniettò la solita robaccia sbattendomi un altro ago dentro la granfia con rabbia e cattiveria. E poi, esausto, fui trasportato sulla sedia a rotelle nel filmodromo dell'inferno. Questi film, fratelli, erano uguali tutti i giorni. Sempre calci e festoni e salsa rossa che colava dalle biffe e dalle macerie e schizzava fin sulla lente della macchina. In genere erano malcichi ghignanti e gufanti, tutti all'estremo grido della moda moschetta, oppure torturatori giapponesi che ridacchiavano «hehehe» o nazisti brutali che ammazzavano a calci o fucilate. E ogni giorno la nausea e i dolori al planetario e agli zughi e la sete aumentavano e io avevo voglia di morire. Finché un mattino, sbam, sbam, sbam, mi misi a sbattere il planetario contro il muro per cercar di svenire e fregare quei bastardi, ma riuscii solo a farmi venire la nausea, locchiando che quella specie di violenza era come la violenza dei film. Così mi trovarono soltanto esausto e mi fecero l'iniezione e mi portarono via in carrozzella, come al solito. E poi un mattino mi svegliai e mangiai la mia colazione di uova e toste marmellata e cià al latte. E poi pensai: non può durare ancora molto. Devo essere vicino alla fine. Sono arrivato al massimo della sofferenza e non posso soffrire più. E aspettavo, fratelli. Aspettavo questa quaglia infermiera con la siringa, ma non venne. E poi arrivò il sottopoldo in bianco e disse: «Oggi, vecchio mio, ti lasciamo camminare.» «Camminare?» dissi. «Per andare dove?» «Al solito posto», disse. «Proprio così. Non fare quell'aria stupefatta. Oggi te ne vai al cinema a piedi, insieme a me, naturalmente. Non te ci porteremo più con la sedia a rotelle.» «Ma», dissi, «e quell'orribile iniezione del mattino?» Perché ero veramente sorpreso, fratelli, dato che mi erano sembrati così ansiosi di cacciarmi questa trucca Ludovico in corpo. «Non mi ficcate più quella nauseante robaccia nella mia povera granfia martoriata?» «Tutto finito», disse questo Martino, tipo gufando. «Per sempre amen. Adesso farai tutto da solo, ragazzo mio, e andrai nella stanza degli orrori con le tue gambe. Però sarai ancora legato e obbligato a guardare. Su, andiamoti, grotto. E così dovetti mettermi la vestaglia e le toffole e percorrere il corridoio che portava al filmodromo. Ora, questa volta, fratelli miei, non solo mi sentii molto male, ma ero anche molto perplesso. Ci fu tutto da capo. Tutta la vecchia ultraviolenza e i soliti Martini con il planetario fracassato e le quaglie colanti salsa e scriccianti pietà, tutte le solite porcherie private e individuali. Poi ci furono i campi di concentramento e gli ebrei e le strade grigie tipo estere piene di carri armati e di uniformi e la grega che cascava giù sotto il fuoco dei fucili e insomma il lato pubblico della faccenda. E questa volta non potevo dar la colpa a nulla se mi sentivo la nausea e avevo sete ed ero pieno di dolori da tutte le parti, tranne a quello che ero obbligato all'occhiare coi fari tenuti aperti con le pinze e le patte e le macerie legate alla sedia, ma senza più fili e altri trucchi attaccati addosso. E quindi? Cosa poteva essere se non i film che stavo l'occhiando? A meno che, naturalmente, questa roba Ludovico fosse come una vaccinazione e continuasse a girarmi nella salsa, di modo che io sarei stato male per sempre e amen ogni volta che l'occhiavo quel genere d'ultraviolenza. Allora mi venne il truglio quadro e cominciai a far bah, e le lacrime tipo cancellarono quello che ero costretto a l'occhiare, tipo tante benedette gocciole di rugiada. Ma queste lezioni in bianco arrivarono al lampo coi garzuoli per asciugarmi le lacrime, dicendo «Su, su, che ha da frignare questo bambino?» E allora tutto tornò di nuovo chiaro, e c'erano questi tedeschi che spingevano coi pungoli gli ebrei imploranti e piangenti, malcichi, quaglie, poldi e babusche, dentro i sosti dove tutti sarebbero morti sniffando il gas. E io giù a far bah, ah, ah, ah, e quelli di corsa ad asciugarmi le lacrime perché non perdessi nemmeno un fotogramma. Oh, fu una terribile e orribile giornata, fratelli miei e miei unici amici. Quella cupa me ne stavo a letto tutto solo dopo la mia cena di stufato di montone, torta di frutta e gelato e pensavo, accidenti, accidenti, forse me la posso ancora cavare se riesco a uscire di qui adesso. Però non avevo nessun'arma, non mi permettevano di tenere una lisca e un giorno sì e uno no, prima di colazione, veniva a sbarbarmi un poldo calvo e grasso insieme a due altri bastardoni in bianco che stavano lì a l'occhiare che facessi il bravo malcico non violento. Le unghie me le avevano tagliate e limate per benino perché non potessi graffiare, ma io ero ancora guizzo nell'attacco, anche se mi avevano indebolito, fratelli, e non ero più che l'ombra di quello che ero stato ai vecchi tempi della libertà. Così scesi dal letto, andai alla porta e cominciai a tempestarla di pugni e cinebrivido, scricciando «Aiuto! Aiuto, sto male, muoio! Dottore, dottore, dottore, presto! Vi prego, vi prego! Oh, sto per morire! Lo sento, aiuto!» E prima che arrivasse qualcuno, il gargame mi diventò tutto secco e mi faceva male sul serio. Poi sentii dei passi nel corridoio e una ciangotta tipo brontolante e riconobbi la ciangotta del poldo in bianco che mi portava la boffa e mi scortava al supplizio quotidiano. Brontolò, «Che c'è? Che succede? Cosa stai cercando di fare lì dentro?» «Oh, sto morendo!» dissi, tipo gemito. «Oh, ho un orribile dolore al fianco! È un attacco di appendicite! Oh!» «L'attacco te lo do io, se non è vero!» brontolò questo poldo. E poi, con mia grande gioia, oh fratelli, snicchiai lo sferragliare delle chiavi. «Se ti ci provi, figlio mio, io e i miei colleghi staremo qui a prenderti a calci per tutta la notte!» Poi aprì. E con lui venne dentro un'aria dolce, tipo promessa di libertà. Ora io ero dietro la porta quando lui aprì, e nella luce del corridoio potei l'occhiare che si guardava intorno perplesso, cercandomi. Allora alzai i due pugni per festarlo di brutto sulla nuca, e poi, lo giuro, mentre avevo la visione anticipata di lui sdraiato per terra gemebondo oppure completamente out, e sentivo una cosa tipo gioia che stava per nascermi nelle viscere, fu allora che questa nausea mi salì dentro come un'ondata e mi venne una orribile paura, come se stessi per morire davvero. Così, facendo urk, urk, urk, barcollai fino a letto e mi ci buttai sopra e il poldo, che non aveva il solito camice ma una vestaglia, l'occhiò subito chiaro quello che aveva avuto in mente, perché disse: «Beh, tutto serve come lezione, vero? Non fai che imparare, si direbbe. Avanti, amico mio, alzati da quel letto e dammi un pugno. Voglio davvero che tu me lo dia, non scherzo. Un bel cazzottone sul muso. Oh, lo desidero proprio, sai? Muoio dalla voglia!» Ma tutto ciò che potevo fare, fratelli, era di star lì disteso a singhiozzare. Bah, ah, ah, ah. «Verme!» disse allora questo poldo come beffardo. «Luridume!» E mi tirò su per il colletto del pigiama, dato che io ero così debole e fiacco, e alzò la granfia destra e prese l'aire, e io mi beccai un gran festone dritto sulla biffa. «Questo», disse, «è per avermi fatto alzare dal letto, giovinastro!» E si spolverò le granfie una contro l'altra, tap tap, e uscì. «Trac, trac», fece la chiave nella toppa. E allora, fratelli, io dovetti fuggire nel sonno dall'orrenda e sbagliata sensazione che era meglio prendere le botte che darle. E se quel Martino fosse rimasto, avrei potuto perfino porgergli l'altra guancia. Non riuscivo a credere, fratelli, a ciò che mi dicevano. Mi sembrava d'essere in quel lezzoso sosto da quasi un'eternità e che ci sarei rimasto ancora per un'altra eternità. Ma invece si trattò davvero di 15 giorni e ora mi dicevano che i 15 giorni erano finiti. Dissero: «Domani, amico, aria!» E fecero il gesto col vecchio pollicione come per indicarmi la libertà. E poi il poldo in bianco che mi aveva festato e aveva continuato a portarmi i vassoi con la boffa e a scortarmi alla tortura quotidiana disse: «Ma davanti a te hai ancora una gran giornata. È un po' come il giorno dell'esame finale». E si fece una gufata tipo beffarda. Quel mattino mi aspettavo di dover pistonare come al solito fino al filmodromo in pigiama e toffo alle vestaglia. Invece no. Quel mattino mi dettero la mia camicia e le mie sototrucche e le mie palandre e i miei bei calcio stivali cinebrivido, tutto pulito, lavato e stirato e lucidato. E mi restituirono perfino la lisca tagliagola che nei giorni felici usavo per lo scapriccio e lo squassaggio. La sbirciavo perplesso mentre mi vestivo, ma il sottopoldo in bianco non voleva sprolare nulla, o fratelli, e ghignava soltanto. Così mi guidarono molto gentilmente allo stesso vecchio sosto, ma c'erano stati un mucchio di cambiamenti. Lo schermo era ricoperto da tende e il vetro opaco sotto i fori della proiezione non c'era più. Forse era stato tirato via o ripiegato ai lati tipo imposte o persiane. E dove c'era stato il rumore come di tosse e le ombre in movimento, adesso c'era un vero pubblico. E tra questo pubblico c'erano delle biffe che conoscevo. C'era il governatore della Prista e il Sant'Uomo Salmiere e il capo satellite e quel Martino molto importante e molto ben vestito che era il ministro degli interni o esterni. Tutti gli altri non li conoscevo. C'erano anche il dottor Brodsky e il dottor Brenom, ma non avevano più il camice. Erano invece vestiti all'estremo grido della moda, come fanno i dottori quando diventano così importanti da poterselo permettere. Il dottor Brenom era in piedi ma stava zitto, e il dottor Brodsky stava anche lui in piedi, ma sprolava in una maniera tipo difficile a tutti gli altri martini dell'assemblea. Quando mi locchiò venire disse: «Ah ah, a questo punto, signori, presentiamo il soggetto in questione. Come potete constatare, il ragazzo è in forma e ben nutrito. Ha dormito tutta la notte e ha fatto una buona colazione. Non è né drogato né ipnotizzato. Domani lo rimandiamo nel mondo con fiducia, perché sarà come uno dei tanti ragazzi che si possono incontrare in un mattino di maggio. Un ragazzo non violento, privo di cattiveria e semmai, come vedrete, incline alla gentilezza e pronto ad aiutare il prossimo. Quale cambiamento, signori, da quel disgraziato teppista che 2 anni fa lo Stato condannò a una punizione inutile e che questi 2 anni non sono riusciti a mutare. Anzi, la prigione gli ha insegnato i falsi sorrisi e i modi untuosi dell'ipocrisia, la malizia strisciante e servile. Gli ha insegnato altri vizi, oltre che incallirlo in quelli di prima. Ma basta con le parole, signori. Sono i fatti che contano e noi vi offriamo dei fatti. Osservate, vi prego. Io ero un po' intontito da tutto questo sprolare e stavo tipo cercando di rendermi conto che era di me che si trattava. Poi le luci si spensero e poi uscirono due riflettori dai buchi della proiezione e uno di questi era puntato sul vostro umile e sofferente narratore. E dentro l'altro cerchio di luce si stava avvicinando un gran martino tamagno che non avevo mai locchiato. Aveva una biffa tipo un pezzo di lardo con i baffi e dei capelli tipo strisce incollate sul planetario calvo. Sarà stato sui 30 o sui 40 o sui 50, un sacco d'anni così, bigio. Pistonò fino a me e il riflettore pistonò con lui finché le due luci fecero un solo largo cerchio. Questo Poldo mi disse, molto beffardo: «Salve, mucchio di spazzatura! Puh! Non devi mica lavarti molto a giudicare dall'odore!» Poi, come se ballasse, mi zompò sulle patte, sinistra, destra, poi mi sganciò un buffettone d'unghia sul naso che mi fece un male da scardinati e mi fece venire le vecchie lacrime ai fari. Poi mi storse lo snicchio sinistro come se fosse la manopola di una radio. Snicchiavo delle risatine e anche un paio di «how, how, how» cinebrivido venire dal pubblico. Il naso e le patte e lo snicchio mi facevano un male buriano, così dissi: «Ma che ti pigli, amico? Io non ti ho mai fatto nulla!» «Oh!» disse questo Poldo. «Ti faccio questo! Flick, flick sul naso di nuovo! E questo! Trac, trac con l'orecchio! E quest'altro! Zoom! Un gran pestone sulla patta destra, perché mi stai antipatico! E se non ti va, fa qualcosa, no?» Ora, io sapevo che avrei dovuto fare maledettamente al lampo a tirar fuori la lisca prima che questa orrenda micidiale nausea mi sciaguattasse addosso e cambiasse il piacere tipo gioia della battaglia nella sensazione che stavo per sbaraccare. Ma, oh, fratelli, appena la granfia toccò la lisca nella gaioffa, ebbi questo quadro davanti ai fari tipo visione. E c'era questo martino offensivo che ululava pietà con la salsa rossa che gli colava dal truglio. E dopo questo quadro, la nausea e l'arsura e i dolori mi si stavano precipitando addosso i guizzi e io l'occhiai che dovevo cambiare modo di sentire su questo schifoso Poldo e parecchio al lampo pure. Così mi frugai nelle gaioffe in cerca di sigarette o di Bella Maria, ma di queste trucche non ce n'avevo, oh fratelli. Dissi, tutto boccalone e belante: «Vorrei darti una sigaretta, amico, ma non ne ho nemmeno una». E questo Poldo fece «Wah, wah, bah, piagnone!» Poi, flick, flick, flick, mi pizzicò da capo il naso con l'unghiaccia dura e tamagna e snicchiai delle gran gufate tipo ilarità a venire da quel pubblico buio. Io dissi, disperato sul serio, cercando d'essere carino con questo Poldo manesco e offensivo per fermare i dolori e la nausea che mi salivano su: «Permettimi, voglio far qualcosa per te, permettimi!» E mi frugavo nelle gaioffe, ma c'era soltanto la mia lisca tagliagola. Allora la tirai fuori e gliela offersi e dissi: «Per piacere, pigliala, per piacere, te la regalo, pigliala, per piacere!» Ma lui disse: «Tieniteli, i tuoi sporchi regali, mica mi faccio comprare!» E mi dette un colpaccio sulla granfia e la lisca cascò per terra. Così dissi: «Per piacere, devo far qualcosa! Vuoi che ti pulisca gli stivali? Guarda, mi metto in ginocchio e te li pulisco con la lingua!» E fratelli, credeteci o baciatemi le bacche, mi misi in ginocchioni e tirai fuori almeno un metro e mezzo di slappa rossa per leccare i suoi saloppi e sguanosi stivali. Ma questo Poldo mi sganciò un calcio sul truglio, anche se non troppo forte. Così allora mi sembrò che forse i dolori e la nausea non mi sarebbero venuti se soltanto acchiappavo questo sguanoso bugarone per le caviglie e lo tiravo giù per terra. Così lo feci. E lui ci rimase parecchio secco, perché venne giù sbatam come un masso tra le risate di quel pubblico lezzone. Ma locchiandolo per terra, sentii che mi venivano tutte quelle orribili sensazioni, così gli detti guizzo la granfia per ritirarlo su, e lui si rimise in piedi. Allora, proprio mentre stava per piazzarmi un porco festone deciso sulla biffa, il dottor Brodsky disse: «Benissimo, può bastare!» Allora questo orribile Poldo fece una specie di inchino e se ne andò con un passo tipo danza, come un attore, mentre tutte le luci si riaccendevano sopra di me, che sbattevo i fari e belavo a truglio quadro. Il dottor Broschi disse al pubblico: «Il nostro soggetto, come vedete, è indotto al bene quando, paradossalmente, viene indotto al male. L'intenzione di compiere atti di violenza è accompagnata da sensazioni fisiche molto sgradevoli. Per contrastarle, il soggetto deve assumere un atteggiamento diametricalmente opposto. Nessuna domanda? La scelta!» Tuonò una ciangotta profonda. L'occhiaia che apparteneva al salmiere della prigione. In realtà lui non ha scelta, vero? Era il proprio interesse, la paura del dolore fisico che lo hanno spinto a quel grottesco gesto di autoavvilimento. La sua insincerità era anche troppo evidente. Cessa di essere un malfattore, ma cessa anche di essere una creatura capace di scelta morale. «Queste sono sottigliezze», disse il dottor Broschi tipo sorridendo. «Gli alti valori morali non ci riguardano. Noi ci preoccupiamo soltanto di stroncare la delinquenza». «E», saltò a dire questo tamagno ministro ben vestito, «di alleviare l'orrenda congestione delle nostre carceri». «Bravo!» disse qualcuno. A questo punto ci furono un sacco di sprolate e discussioni e io me ne stavo là ritto, fratelli, e completamente ignorato da tutti questi ignoranti castroni, così scricciai: «Io!» «E io? E a me non chiedete nulla? Sono forse una specie di bestia o un cane?» Allora partirono a sprolare tutti insieme e a lanciarmi una valanga di mottate. Così io scricciai ancora più forte, scricciando: «Devo forse essere soltanto un'arancia meccanica?» Non so cosa fosse che mi fece adoperare queste mottate, fratelli, che mi vennero così, tipo senza volere, nel planetario. E chissà perché, questo chiuse il truglio a tutti quei martini per un paio di minutos. Poi un poldo bigio e secco, tipo professore, si alzò, col collo tipo un fascio di cavi che portavano l'energia dal planetario alle macerie, e disse: «Non hai motivo di lamentarti, ragazzo. Hai fatto la tua scelta, e tutto questo non è che una conseguenza della tua scelta. Adesso, qualunque cosa ne derivi, è ciò che tu stesso hai scelto». E il salmiere della prigione scricciò: «Oh, se solo potessi crederci!» E si locchiò benissimo che il governatore gli lanciava un'occhiata come per significare che dopo tutto non sarebbe salito così in alto nella religione carceraria come lui credeva. Poi ricominciarono un fracco di accese discussioni e io snicchiavo la mottata amore che correva di qua e di là. E poi il salmiere, che scricciava come pochi, disse che il perfetto amore allontana la paura e tutta quella sguana. A questo punto il dottor Brodsky disse, con la biffa tutta un sorriso: «Sono lieto, signori, che sia stata sollevata la questione dell'amore. Ora noi vedremo realizzarsi un tipo d'amore che credevamo morto nel Medioevo». E poi le luci si spensero di nuovo e tornarono fuori i riflettori. Uno puntato sul vostro povero e sofferente amico e narratore. E nell'altro cerchio di luce stava venendo con passo ondulatorio la più bella mammola che possiate mai sperar di locchiare, o fratelli, in tutta la vostra 6 giorni. Vale a dire che aveva dei meravigliosi tuberi cinebrivido che potevi locchiare tutti interi, dato che le palandre le scivolavano giù dalle spalle, e le sue putrelle erano come zio in cielo, e lei camminava in un modo da farti gemere fin dentro il budellame. Eppure la biffa che aveva era una biffa giovane, dolce, tipo innocente. Veniva verso di me in mezzo alla luce, come se con lei venisse la luce della grazia divina e tutta quella sguana, tipo. E la prima cosa che mi balenò nel planetario fu che mi sarebbe piaciuto sbatterla lì sul pavimento e farle un vecchio va e vieni furioso e selvaggio. Ma guizza e al lampo ecco che arrivò la nausea, tipo un detective che stesse appostato dietro l'angolo e che ora mi seguisse per pigliarmi e arrestarmi, il bugarone. E adesso la sniffa del meraviglioso profumo che lei aveva addosso mi faceva venire voglia di vomitare anche le busecchie, così dovetti pensare guizzo a qualche nuovo modo di pensare a lei, prima che tutto il dolore e la sete e quell'orribile nausea mi saltassero addosso sul serio e cinebrivido. Così scricciai: «Oh, bellissima e vaga mammola, io getto il mio cuore ai tuoi piedi perché tu possa calpestarlo. Se avessi una rosa te la darei. Se piovesse e ci fosse fango e sguana per terra, io ti darei le mie palandre per camminarci sopra perché tu non ti sporchi i bei piedini». E mentre dicevo questo, fratelli, sentivo che la nausea tipo indietreggiava. «Lascia», scricciai, «che io ti adori e ti aiuti e protegga in questo mondo malvagio». Poi pensai alle mottate giuste e mi sentii ancora meglio quando dissi «Permettimi d'essere il tuo fedele cavalier servente». E giù mi buttai da capo in ginocchioni, inchinandomi e tipo strisciando. E poi mi sentii proprio un micco e un tonno, dato che era stata di nuovo una specie di commedia, perché questa mammola sorrise e si inchinò al pubblico e se ne andò tutta ballerina, con le luci che si riaccendevano e qualche applauso. E questi bigi martini del pubblico seguivano la giovane quaglia coi fari che schizzavano fuori dal planetario per il gran desiderio saloppo, o fratelli. «Sarà un vero buon cristiano!» stava scricciando il dottor Brodsky. «Pronto a porgere l'altra guancia, pronto a essere crocifisso piuttosto che crocifiggere, profondamente disgustato perfino al pensiero di uccidere una mosca». Ed era vero, fratelli, perché quando disse quello, io pensai di uccidere una mosca e sentii un piccolo poco di nausea, ma respinsi subito la nausea e i dolori, pensando di nutrire la mosca con delle bricioline di zucchero e di curarla come un cuccioletto malato e tutta quella sguana. «Redenzione!» scricciò lui. «Gioia per gli angeli di Dio!» «Il fatto è», stava dicendo molto altisuono questo ministro degli esterni, «che funziona!» «Oh!» disse il salmiere della prigione, tipo sospirando. «Per funzionare funziona. Che Dio ci aiuti tutti quanti!» Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.